sapere, provo solo a immaginare che i malati di mente vedono il mondo realmente com'è. Guardati intorno è tutto un sogno, una simulazione dell'inconscio. Devi svegliarti. Dimmi una bugia credibile, perché la verità non fa per me. Dimmi quando parte, io non so dove si va. Ma baci tu su Marte, voglio spaccare tutto solo per sentire che rumore fa. Mi sento al sicuro quando vado oltre. Tu ci vedi un muro, io ci vedo porte. E se muori giuro a noi non ce ne fotte. Troverò qualcuno a guidare le colpe. Ci mandano di fuori ma hanno detto non uscite. Se non senti più sapori puoi legarti le ferite. Fai uno shot di acquavite mentre aspetti il meteorite che sognavi con timore da due vite. Bravo, e nella mente la tua schiavitù. Parli di libertà ma finché non hai schiavitù. Per me un mestiere è fare il saggio, perché la testa mia lavora pure il primo maggio. Sapere, provo solo a immaginare che i malati di mente vedono il mondo realmente com'è. Guardati intorno è tutto un sogno, una simulazione dell'inconscio. Devi svegliarti. Dimmi una bugia credibile, perché la verità non fa per me. Dimmi quando parte, io non so dove si va. Ma baci tu su Marte, voglio spaccare tutto solo per sentire che bentornati sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa, trasmissione studentesca Baronda. Ore 18:47. Oggi parleremo di tanti temi importanti, tanti temi che riguardano il territorio, che riguardano le occupazioni principalmente. Passo la parola alla compagna in sala, che viene dal Virgilio, la scuola che ho occupato la settimana scorsa. Abbiamo due compagni, un ragazzo e una ragazza, che hanno occupato il Virgilio, e poi abbiamo un compagno che ci racconterà degli sfratti di San Lorenzo, che come sapete ci sono ben tre locali, di cui uno è l'Atletico San Lorenzo, un campo da calcio, e due centri sociali, Escatelier e Comunia, tutti e tre sotto sfratto. Cercheremo di parlarne dal punto di vista studentesco, di cosa vuol dire per noi questi sfratti, e poi accenneremo anche al Visconti, che oggi ha occupato, e forse raggiungeremo qualcuno in chiamata. Sì, buonasera a tutti e tutti. Gli ascoltatori, oggi a 8 novembre, vabbè, specifichiamo. Comunque rettifico con un po' di malincuore, perché io sì, sono un ex Virgilio, ma sono insomma una voce frequente in questa trasmissione, perché l'anno scorso insomma stavo in quel liceo, oggi mi trovo alla Sapienza, quindi sono qui come anche mediatrice, però abbiamo un compagno che appunto ha partecipato, ha organizzato e insomma ci racconterà della sua esperienza. E niente, insomma, porteremo in auge i grandi temi delle lotte studentesche, di questa fascia molto rossa e calda soprattutto dell'anno, che ha coinvolto numerose scuole anche in un effetto domino, portando appunto in auge alcuni temi abbastanza frequenti, ahimè, purtroppo abbastanza frequenti, che gli studenti e le studentesse dei licei romani e non continuano a rivendicare. Quindi adesso passo la parola al compagno insomma del Virgilio. Ciao. Buonasera, se ci vuoi raccontare insomma qual è la tua esperienza, poi da quello che è il tuo discorso magari possiamo estrapolare dei concetti, possiamo anche collegarci alle esperienze di altre scuole, come ha detto il compagno prima. Più tardi, diciamo verso la fine della trasmissione, sentiremo anche un compagni del Visconti, che tutt'oggi è una la scuola liceo classico occupato. È vero, è stata una specie di effetto domino, ed è una cosa di cui sono personalmente molto contento, perché non me l'aspettavo e nessuno se l'aspettava per niente, dopo due anni di mortorio dovuto alla sindemia, o come la vogliamo chiamare, e chiaramente la vita politica ne è un po' risentito. Invece noi al Virgilio siamo ripartiti con forza, ed è stato un dato positivo vedere che non siamo stati soli, proprio a partire da una serie di contraddizioni che la pandemia ha portato fuori. Noi siamo entrati lunedì e ci siamo fatti 5 giorni di occupazione belli pieni, con la partecipazione che è stata in realtà andata a crescere per i primi giorni e poi si è stabilizzata intorno al terzo o quarto giorno. Sì, si è trattato di una contestazione generale del sistema scolastico per come ce lo stanno facendo vivere negli ultimi 20 anni, e la pandemia ha giocato a nostro favore, perché in particolare rispetto alle solite contraddizioni che sempre l'occupazione porta fuori ogni anno, ci siamo focalizzati sui problemi psicologici e di ansia e di pressione che il sistema, un sistema sbagliato e incapace di ascolto in fondo, scarica sul singolo, sullo studente, senza fornirgli in alcun modo gli strumenti per affrontarli, anzi andandolo a colpire laddove prova a trovare strade e modelli alternativi. Non lo so, io posso continuare a parlare. Sì, guarda, allora ti faccio una domanda. Io ho letto anche le rivendicazioni che avete pubblicato sui vostri social e siamo molto contenti di quello che dici, cioè dell'attenzione verso i problemi psicologici causati dalla scuola e non solo, diciamo, aggravati dalla scuola, visto che ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate qui in radio. Però abbiamo visto che la rivendicazione era molto generale, diciamo, su una rivoluzione della didattica e del rapporto studente-professore. Ti chiediamo, pensate voi studenti del Virgilio, che questo tema che gli studenti affrontano da molto, diciamo, pensate, sperate che si possa oggettivamente compiere questa grande rivoluzione, oppure è soltanto una rivendicazione utopica? Allora, se la domanda è Virgilio occupato, rivoluzione domani, la risposta inevitabilmente è no, perché viviamo in un mondo profondamente apolitico e disinteressato, e poi soprattutto la risposta dalle istituzioni ormai sono svariati decenni che veramente è tarda ad arrivare. Cioè, il primo giorno di scuola a Milano 3 ragazzi si sono, sicuramente chi ascolta già ne ha sentito parlare, anche voi lo sapete già, si sono suicidati nello stesso giorno, e la risposta del ministro Bianchi è stata una tragica coincidenza. Perciò mi aspetto e ci aspettiamo come Virgilio i dovuti filtri nel rapporto con le istituzioni. Detto questo, la speranza è quella di poter ripartire dal basso e portare, se non altro, un livello di sensibilizzazione, mobilitazione, e in primo luogo, in primissimo luogo, fra gli studenti, perché non è affatto scontato che una serie di disagi e di problemi che tutti noi sentiamo, perché l'abbiamo scritto anche sui vari comunicati, il 98% degli studenti italiani afferma di provare ansia da stress e ansia causati dalla scuola, perciò sono problemi diffusi e sentitissimi. Il punto è che tendenzialmente vengono spinti in uno spazio che non è politico, cioè il problema individuale dell'ansia e del disagio nella narrazione dominante sono appunto problemi individuali, e ci siamo battuti e continueremo a farlo per fare in modo che un problema che è essenzialmente politico venga visto e vissuto come tale. E quindi non penso che arriveremo a risultati concreti a breve termine, però l'unica risposta è la lotta, evidentemente, perciò continueremo così e speriamo che si vada a migliorare, ecco. Beh, in effetti, come anche aveva detto il compagno, facendo riferimento alle rivendicazioni, al comunicato che avete postato, insomma, la sera di lunedì sera, no? Avete, sì, quando siamo entrati. Esattamente, è molto forte, cioè, insomma, sì, contiene, menziona forte concetti effettivamente forti che rappresentano il punto di vista, appunto, di ragazzi che hanno sperato per 2 anni, insomma, una rivalutazione, un cambiamento radicale anche dopo quello che potesse essere la pandemia, no? Sappiamo, magari la storia ci insegna, che dopo un momento, insomma, di deficit, un momento molto molto basso a livello sociale, anche politico, economico, di crisi, esatto, ci possa essere una risalita, ci possa essere, diciamo, una rinascita anche di quelle che sono le menti, no? E non sembra, insomma, che sia, diciamo, questo spazio sia stato creato anche non tanto che sia nato, quanto appunto lo spazio creato. Quindi voi giustamente parlate di appunto luoghi comuni, di attivismo, cose che alla fine, cioè, come dire, beh, dall'alto sicuramente non verranno, no, però appunto sembra un qualcosa di effettivamente nuovo, ma tanto nuovo non è, è la storia che si ripete purtroppo. Sì. E volevo chiederti, nella tua magari esperienza personale, così facciamo capire anche agli ascoltatori e agli ascoltatrici di che cosa si è trattato, insomma, la vostra occupazione, quali erano i corsi, come vi eravate organizzati, certo, per anche fare uscire fuori, come dicevi tu, l'essere, no? Avete detto che avete fatto lezioni sull'educazione sessuale, sull'ambientalismo, corsi di scrittura creativa, cioè è tutto un modo per far fuoriuscire la natura vera e propria, la natura pura, sì, di un uomo, di una donna. Quindi insomma è stato produttivo, ha fatto capire qualcosa, ha dato anche dei messaggi fuori dalla scuola. Io spero di sì. Allora, l'idea era quella di proporre proprio nella pratica un modello alternativo di istruzione, e quindi sì, di formare uomini e donne, e giovani uomini e giovani donne, in qualche modo liberi dagli schemi opprimenti e oppressivi di un sistema che punta al conformismo, all'omologazione, perché le linee guida del potere sono, e quindi del sistema della scuola, sono il profitto e la preparazione al mercato del lavoro. Beh, tutta una merda che c'è fin troppo chiara. In realtà sì, le rivendicazioni sono le stesse, cioè non c'è niente di nuovo in quello che abbiamo portato. E abbiamo fatto un corso su Genova giovedì, ed è uscita fuori sul G8, ed è uscita fuori uno slogan di allora che era: avevamo ragione noi. E in effetti sì, cioè sono le stesse rivendicazioni che portavano in O Global 20 anni fa, e il fatto è che non c'è stato un cambiamento effettivo, perciò continuiamo a portarle avanti, magari trovando nuovi modi per farlo. E quindi il primo giorno, come dicevi, c'è stato un corso di educazione sessuale, e piuttosto partecipato e piuttosto sconvolgente in realtà, anche per me che mi consideravo formato, e nell'ottica di portare avanti un'educazione alternativa, quindi abbiamo buttato dentro dei temi proprio specifici su come noi pensiamo che una persona che vive un mondo complesso e pieno di contraddizioni e di forze ostili debba formarsi. Perciò abbiamo abbracciato temi dell'attivismo politico, temi di militanza storica, e abbiamo fatto un corso sugli anni 70, però provando a slacciarci da un'ottica di nostalgia e di mitizzazione di roba passata, abbiamo provato a portare tutto in maniera concreta, in maniera presente oggi, ai fischelli che hanno deciso di partecipare, e sono stati in tanti, e questo è stato piuttosto gratificante, ecco. Se posso, ci sono delle cose, degli elementi che il movimento studentesco porta che sono innovative, secondo me. Una cosa che secondo me qualche anno fa non c'era era questa forte partecipazione, diciamo, di argomenti, di corsi, di attività durante l'occupazione che in qualche modo sostengono e sono complementari alla didattica ministeriale. Cioè i corsi che vengono portati alle occupazioni non sono casuali, sono corsi come, diciamo, l'educazione sessuale, la questione della Palestina, la questione degli abusi di potere della polizia. Noi abbiamo pensato a tavolino quali sono le cose che la scuola non ci dà, e abbiamo suddiviso l'occupazione in giornate, e in ognuna di queste giornate abbiamo provato a sopperire alle mancanze che loro ci davano. In un primo momento questo era il progetto, poi ci siamo detti: non soltanto la scuola è carente verso di noi, ma anche non è soltanto carente, ma anche impositiva, cioè non soltanto ci dicono, mancano nel dirci delle cose necessarie e fondamentali, ma anche ci dicono e ci insegnano quelle sbagliate. Perciò sì, abbiamo provato a fornire un'alternativa concreta a quelle che sono le mancanze del sistema. Abbiamo provato anche a fornire un occhio critico a tutto tondo sul sistema scolastico. Abbiamo visto anche che abbiamo mostrato che non è difficile poi sopperire a queste mancanze, cioè non sono mancanze che non è possibile dare quel tipo di contenuto agli studenti, ma sono delle mancanze che volutamente non vengono date. Sì, allora io non sono, cioè si rischia sempre di scadere un po' nel complottismo quando si parla della volontà mirata da parte delle istituzioni nel tagliare e nel negare certi argomenti, però